Ok. L'idea di entrare un po' in questa lettura. La prima parola che oggi apre la profezia sia di Giovanni Battista e anche del Signore è convertitevi. La prima parola che aprirà il nuovo messaggio di Gesù Cristo è convertitevi, cioè la parola che genera il senso del messaggio di Gesù. E notate, tutti e due poi continuano, perché il regno di Dio è vicino. Faccio notare, non è una parola rivolta ai lontani, agli atei, ai pagani, ma ai buoni, a coloro che vanno nel deserto da Giovanni, a coloro che frequentano le sinagoghe, che vanno ad ascoltare il Signore Gesù. È una parola dura, durissima, perché piena di interrogativi, convertitevi. Cambia un certo modo di pensare, cambia un certo modo di percepire la realtà, di considerare la vita, le persone. Riorienta i tuoi desideri. Cerca continuamente l'intimità del dialogo con il tuo Dio. Non c'è spazio per migliorare se non mi accorgo di come agisco o come reagisco. Se rimango superficiale, distratto, indifferente, se non penso alla mia vita, se non guardo gli eventi con occhi puliti, puliti da pregiudizi, puliti da sospetti, puliti da paure futili, da timore futili. Nessuno meraviglia se dico che la conversione è a partire dall'idea o dalla percezione di Dio. Perché? Perché in nome di Dio si può diventare fanatici, intolleranti. Ne abbiamo anche di cronaca attuale. Si diventa anche profeti di sventura, sempre in nome di Dio. Del resto la storia è piena. In nome di Dio si è arrivati a seminare la morte. Chissà, mi diceva un amico ieri, che Mandela lo facciano santo in fretta. Sarebbe bello. Quindi si tratta di convertirsi dal Dio della legge al Dio del dono, al Dio della misericordia, al Dio di Gesù Cristo. Inoltre, cambiare mentalità secondo Giovanni Battista e poi secondo Gesù Cristo significa non pensare, non essere così convinti che questo mondo migliora solo per calcoli, con furbizie, per rapporti di forza, dove è più importante apparire che essere, dove si annulla il senso di colpa o anche la colpa stessa e lo sostituisce con il senso di vergogna, ma il senso di vergogna dove non conta ciò che ho fatto, ma se gli altri lo vengono a sapere o no. Voi capite quanta storia ci sta dentro qui, eh? Giovanni Battista è durissimo. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, dice loro: razza di vipere, chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? Fate frutti di conversione e non crediate di poter dire fra voi: abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. E qui ieri sera mi veniva la tentazione di fare un excursus veloce, l'ho fatto ma non lo riportiamo. Quante volte ritorno dentro anche nelle pagine evangeliche il termine della pietra, la pietra scartata dai costruttori, no? Ma anche altri riferimenti. Ci sarà qualche altra occasione. Mi preme invece di stufarvi con questa sollecitazione. Convertitevi. E che cosa vuol dire convertirsi? Perché il regno di Dio è vicino. È una consolazione sentirci dire che Dio è vicino. La sua ira, evocata da Giovanni Battista, l'ira di Dio non è mai contro di noi, ma contro il nostro male, contro le nostre ombre, e lotta contro il nostro male. Notate, portate via solo questa idea. E lotta contro il nostro male perché ci fa male. Quando Dio si adira, l'uomo è salvo, perché viene il suo difensore, muore il peccato e il peccatore vive. Dio è vicino, questa è la lieta notizia. E la speranza è questa sproporzione tra ciò che è promesso, il lupo e l'agnello dimoreranno insieme, e ciò che teniamo tra le mani, l'orientamento della nostra vita verso il bene. Velocemente, ci sono due o tre sottolineature che ritengo vale la pena considerare. Dio è vicino come lotta contro il male. Infatti si dice nel testo, se lo leggiamo attentamente, vicino come deserto, cioè come riduzione di tutto ciò che nella vita, nella storia degli uomini è superfluo, è effimero, non essenziale. Perché, penso io, troppe cose ingombrano la mente, appesantiscono la libertà della coscienza, profanano la nostalgia del divino ed è alla radice del nostro essere. Ecco perché si parla di sradicamento dentro nel testo. Là dove può risuonare la speranza. Si parla di fuoco che ha bisogno di essere alimentato. Non mi dilungo. Gli alberi senza frutto. C'è l'idea dell'acqua che fa ripartire, fa germogliare, promuove creatività l'acqua. E anche qui non c'è bisogno di dilungarsi. Gesù Cristo, San Paolo ce lo dice, Cristo si è fatto nostro servitore, uno che si fa servitore. Allora capisco qualcosa di più. San Paolo me lo insegna. Conversione, coltivare gli stessi sentimenti di Gesù Cristo verso se stesso, verso gli altri e anche verso il nostro Dio. La conclusione brevissima è segno della conversione. Accoglietevi gli uni gli altri. Non lasciate nessuna creatura inquieta o fragile o che arranca, bisognosa di sentirsi qualcuno. È il desiderio più radicale, più profondo, più insostituibile. Ognuno di noi è, se viene riconosciuto. Gesù Cristo è uno che dice: sono venuto per riconoscerti. Custodi di ogni speranza, servitori di ogni seme di vita. Basta così.